Economia in pagina. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori, Libri di Economia. Oggi parliamo della trappola e lo facciamo con Sandro Mangiaterra. Buongiorno Mangiaterra. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sandro Mangiaterra è stato inviato speciale di Panorama, attualmente editorialista dei quotidiani veneti e collabora con il Sole 24 Ore, soprattutto con Nova 24. E ha scritto con Carmelo Abbate, caposervizio della sezione attualità di Panorama, questo libro che è intitolato appunto La Trappola ed è un'analisi, direi un processo molto forte, molto duro e anche molto esplicito al sistema finanziario, al sistema bancario, soprattutto alla luce della crisi che ha sconvolto e che sta ancora sconvolgendo i mercati finanziari. Allora, Mangiaterra, come è nata l'idea di intitolare questo libro La Trappola? Ma guarda, perché quello che noi cerchiamo di dimostrare, portando anche una serie di casi, ma tanti, una cinquantina, forse di più, 60, 70 casi concreti, è di persone, di ogni ceto sociale, di ogni professione, insomma, è che questa crisi finanziaria ci tocca tutti quanti, ci investe diritti nel nostro portafoglio e quindi è una trappola che è, diciamo, due volte, no? Un primo effetto è che la paghiamo direttamente, basti pensare all'esplosione dei tassi variabili sui mutui, adesso ovviamente è un po' cambiato, insomma, la BCE ha ridotto i tassi, l'America li ha azzerati, ma li paghiamo direttamente con i mutui, direttamente con il risparmio tradito, ancora una volta, basti pensare a che 100.000 italiani si sono ritrovati in qualche modo con titoli obbligazione Lehman Brothers, alcuni acquistati pochi giorni prima del default. E poi c'è la trappola indiretta, che questa crisi finanziaria è arrivata diritta e si è ripercuote sull'economia reale ed è il dramma che del 2009. Io poi non so se tu, Fabi, sei ottimista o pessimista o a metà, no? Sai che ci sono 2, 3, 4 scuole di pensiero, però insomma la crisi dell'economia reale del 2009 è lì sotto gli occhi di tutti, no? Quindi... Sì, certamente, tutte le crisi peraltro però sono fatte per essere superate, quindi dobbiamo essere ottimisti per ragione, per contratto, per prospettiva e anche perché insomma essere ottimisti ci dà un po' più di tranquillità sul futuro, un po' più di speranza, però ecco, condivido il fatto che bisogna essere anche realisti nel giudicare le cause di queste crisi e questo libro le mette in luce molto bene, con un po' di acidità indubbiamente, con un po' di capacità di andare un po' alla radice, usando anche dei toni forti, usando dei toni pesanti verso quanti comunque hanno tradito la fiducia dei consumatori, dei risparmiatori. Basta pensare che qualche mese fa avevamo un petrolio a $150, che il grano, che è un bene essenziale, proprio per speculazioni finanziarie ha visto moltiplicarsi il proprio prezzo, per pensare che forse il sistema qualche difetto ce l'aveva. Allora non c'è dubbio. I difetti vanno messi in luce. E allora, Mangiaterra, quali sono secondo te i difetti principali del sistema finanziario? Ma guarda, c'è un difetto che voglio dire tutti gli analisti, gli economisti, noi siamo semplici giornalisti, hanno messo in evidenza, che è questa totale dissintonia della finanza rispetto all'economia reale, no? Questa moltiplicazione di strumenti finanziari complicatissimi, Marchionne ha detto ci vuole un GPS per capire che cosa c'è dietro, nessuno più si rendeva conto della moltiplicazione delle pani e dei pesci, quindi io rivendo un titolo a te che lo rivendi all'altro, che lo rivendi all'altro, ed è poi la botta dei famosi mutui subprime che ha scoperchiato il pentolone, no? Quindi questo eccesso di finanza è una riflessione su cui tutti noi dobbiamo un attimo appunto stare attenti e vedere che cosa si può fare. Poi ecco, c'è una cosa specifica sul sistema bancario internazionale, le regole poche forse insufficienti, ma sicuramente sono completamente saltate. Basti pensare alle società di rating, le società che dovrebbero controllare l'affidabilità dei mercati, totalmente inaffidabili, dovrebbero giudicare l'affidabilità dei titoli, ma chi controlla il controllore, no? E anche questa è una riflessione. Nello specifico del nostro sistema bancario c'è sicuramente un problema di rapporti con la clientela e di fiducia tra il cliente consumatore e il sistema bancario. È un problema che nasce da lontano, non dimenticare che noi veniamo da 3 scandali uno dopo l'altro molto grossi, no? I bond argentini, Cirio e Parmalat sono cose di cui si discute a livello processuale in queste settimane, in questi giorni, mica stiamo parlando di cose del secolo scorso, no? E quindi c'è un rapporto antico di diffidenza tra il cliente e il sistema bancario. Il cliente va in banca da noi, che abbiamo sicuramente un gap di alfabetizzazione finanziaria, e va in banca come va dal medico. Dice: dottore, mi dica lei che cos'ho, no? E si affida del medico. Poi, quando scopre che invece il medico non pensa a curare te che sei il malato, ma pensa soltanto a far soldi, questo devi ammettere che è seccante, no? Indubbiamente, soprattutto quando poi si svolge il paradosso che dei prodotti che vengono offerti al pubblico con delle etichette che danno la massima garanzia, poi se uno va ad aprire vede che il contenuto è tutt'altro che garantito. Qui è significativo notare come in questo libro ci sia in fondo un vocabolarietto per spiegare i termini economici principali, però questo vocabolarietto è interpretato, tanto che il titolo non è appunto vocabolario, ma è primo non farsi fregare. E per esempio leggiamo la descrizione di derivati, prodotti finanziari nati per proteggere le imprese e le banche dalle forti oscillazioni delle materie prime dei mercati borsistici. Con il tempo si sono trasformati in strumenti di altissima speculazione. Ci sono cascati in tanti, compresi grandi comuni come Milano e Roma. Ora tutti si ritrovano nei guai. E quindi, ecco, questa è la definizione dei derivati secondo questo libro, La Trappola. E si può continuare, per esempio, le polizze index linked, anche qui delle polizze sulla vita, anche quindi sulla sicurezza, sulla garanzia per il futuro, vendute ai risparmiatori, che poi si è scoperto che all'interno avevano tutt'altra cosa che garantiva gli stessi risparmiatori, tanto che alcune banche hanno dovuto cercare di mantenere i clienti pagando di tasca propria quanto i clienti avevano perso. In questo senso siamo di fronte a una grande illusione e qualcuno dice a una grande truffa. Non c'è dubbio. Sai, qui c'è un problema anche qui di vecchia data. Le banche hanno inventato delle formule, adesso non senza entrare troppo in tecnicalità, però la prima cosa è le stock option ai dirigenti, no? Per forzare in tutti i modi il conto economico, per ottenere risultati a breve termine e soprattutto sulla moltiplicazione del valore delle azioni, no? Quindi c'è già di per sé una forzatura dell'azionista nei confronti del management. Il manager a sua volta c'è quello che si dice mal di budget, manda a tutte le filiali sul territorio una sorta di lista della spesa a inizio dell'anno: devi vendere tot mutui, tot obbligazioni della nostra banca, devi vendere tot mutui, eccetera eccetera. Se rispettate voi filiale di Seveso, di Macerata, di Bari, se rispettate questo budget avrete tutti un premio. Ecco, questo è un meccanismo forzoso che poi non guarda in faccia a nessuno, perché chiunque va è in balia del rispetto del budget. Se sei sotto budget su certi, per esempio sul mercato azionario, è capace che esci con delle azioni anche se vuoi i bot. Ecco, non so se sono riuscito, certo, indubbiamente, a spiegare a te, agli ascoltatori, questo meccanismo che è un po' forzoso e diventa un meccanismo pericoloso per il consumatore. E quindi ci vuole attenzione soprattutto sul fatto che coi soldi non si possono realizzare altri soldi, che la ricchezza non si crea dal nulla solo attraverso delle operazioni speculative e operazioni finanziarie. Anche questa illusione che spesso è stata data ai risparmiatori di avere delle massime garanzie investendo in strumenti di grande fragilità. Ecco, forse la crisi finanziaria adesso ha portato allo scoperto queste cose, hanno detto il re è nudo, guardate la realtà del sistema finanziario, è un sistema che deve essere un sistema che fa da intermediario, non può promettere quello che non mantiene. Però indubbiamente il peso che poi si è riversato sui risparmiatori è stato molto forte, soprattutto sui risparmiatori che in gran parte hanno, soprattutto su quelli che hanno cercato di assecondare l'onda della speculazione e si sono trovati in mano con il cerino acceso. Certo, questo sai, il disincanto di cui stai parlando tu è probabilmente salutare, cioè se riportiamo un po', ci riportiamo tutti coi piedi per terra, questo non fa male, forse ecco, questo è l'ottimismo iniziale, no? In qualche modo da questa crisi dobbiamo tutti quanti uscire migliori, il sistema finanziario, il sistema bancario, il sistema delle imprese e anche i consumatori. Cercando a fondo di ritornare al fatto che il denaro è uno strumento certamente che bisogna anche un po' accumulare se si pensa alla vecchiaia, che bisogna un po' accumulare se si pensa a vivere meglio in futuro, uno strumento in cui le banche sono importanti perché intermediano tra chi denaro ne ha e chi di denaro ne ha bisogno, però ecco, con tante di quelle eccezioni negli ultimi anni che hanno portato il risparmio ad essere tradito, che hanno portato il sistema finanziario nella situazione attuale. Quindi la trappola, io ricordo il libro di Carmelo Abbate e Sandro Mangiaterra che abbiamo avuto con noi, ha una prefazione di Gian Antonio Stella, edito da PM, ha un prezzo che è 17,50 euro per 270 pagine, è un libro che si legge con un po' di amarezza perché descrive in poi in fondo quelle che sono state le illusioni ma anche le speculazioni di un sistema finanziario che ha tradito un po' la sua anima. Grazie a Sandro Mangiaterra, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.